GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In forte diminuzione i prestiti concessi alle piccole e piccolissime imprese. In Friuli Venezia Giulia quasi 200 milioni in meno dal 2021 al 2022. Per diversi esercenti, artigiani, piccoli commercianti e lavoratori autonomi, la via d'uscita della chiusura o dell'usura. Le nuove sfide per i profughi ucraini, a cui il governo ha prorogato il permesso di soggiorno per tutto il 2023. Per molti di loro ora l'obiettivo è trovare un lavoro e una casa. Aria di primavera a Pordenone, dove è in corso Orto Giardino. Colori e profumi si rincorrono di fiore in fiore fra i 200 stand del Salone della Floro Vivaistica, che si concluderà il 12 marzo. Calcio in Serie A, reti inviolate a Bergamo fra Udinese e Atalanta. In Serie C, nel pomeriggio, Pordenone Pergolettese e Mantova Triestina. Forte anche il piatto del basket con Trieste Treviso, e in Serie A2 il derby Udine Cividale. È domenica 5 marzo 2023, sono le 8:31 minuti. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è il tempo. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Ecco le temperature registrate mezz'ora fa. Trieste 8 gradi, Gorizia 7, Udine 6 e 5, Pordenone 4, Tolmezzo 2 gradi e 5, Forni di Sopra 1 e 5, Biancavallo 5 decimi di grado, Tarvisio meno 3 e mezzo, Sappada meno 5 e mezzo, sullo Zoncolan meno 1 grado e sul Lussari meno 1 grado e mezzo, a Grado e a Lignano 8 e 5. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: al mattino cielo sereno, poco nuvoloso, farà ancora piuttosto freddo in pianure e nei fondi valle. Nel pomeriggio cielo variabile su pianure prealpi, poco nuvoloso su Alpi e sulla costa. Verso sera il cielo tenderà a coprirsi ovunque, lo zero termico scenderà a 1300-1500 metri di quota. C'è chi ha chiuso e anche chi ha dovuto chiedere aiuto agli usurai. Gli istituti bancari hanno stretto i rubinetti del credito alle piccole e micro imprese. Un fenomeno diffuso in tutta Italia, ma che in Friuli Venezia Giulia è stato ancora più pesante. Niente prestiti per i più piccoli. Continua il calo del credito delle banche nei confronti delle piccole e micro imprese del Friuli Venezia Giulia. Secondo i dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre, dal 2021 al 2022 si sono persi quasi 180 milioni di euro. A farne le spese sono tutti quei microimprenditori, un esercito di piccoli commercianti, artigiani e lavoratori autonomi, che costituiscono la maggioranza in regione. Come spiega lo studio, molti si trovano così costretti a chiudere, mentre altri cadono nella trappola dell'usura. In 10 anni si è perso per strada 1,3 miliardi di prestiti, cioè il 33%, quasi 8 punti in più della media nazionale. Il crollo, continua la ricerca, sarebbe dovuto alla scomparsa delle due grandi banche venete, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, e alle difficoltà vissute da altre banche di credito cooperativo. Intanto, tra il 2021 e il 2022, il calo peggiore è toccato a Udine, con una riduzione dei prestiti del 7,2%, male anche Gorizia e Pordenone, che hanno perso poco più del 6%, mentre Trieste scende del 4,8%. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: incidente mortale ieri pomeriggio a Polcenigo per un uomo ultra ottantenne a causa di una ferita accidentale a una gamba con la moto zappa mentre l'uomo lavorava al campo dietro casa. Della sua morte si è accorta la moglie, che non vedendolo tornare è andata a cercarlo, trovandolo già privo di vita. Permessi di soggiorno prorogati fino a fine anno, ma i circa 6.000 profughi di guerra scappati dall'Ucraina cercano ora sistemazioni più stabili. La gran parte di essi è ancora ospite di parenti e amici. Trovare una casa e riuscire a mantenersi. Queste le sfide più grandi per gli oltre 6.000 ucraini ufficialmente presenti in Friuli Venezia Giulia ad un anno dal loro arrivo. Più dell'80% di loro vive ancora da amici o parenti. Natalia ospita un nipote ucraino e ci racconta di una famiglia di sua conoscenza. 3 figli, il padre ha da poco trovato lavoro. Possono stare più dal parenti in 5 persone. Devono o trovare appartamento o andare a vivere da soli, che è un po' difficile, che a loro affittano un appartamento, diciamo, da noi in affitto. e tornare, non hanno dove tornare, hanno perso tutto. Ci parla delle stesse difficoltà negli affitti Dimitri, direttore di una scuola internazionale di design a Kiev. Sono arrivati in 8 con 2 valigie un anno fa. Finora è riuscito a mantenersi per lo più grazie ai propri risparmi. Chi come lui è altamente qualificato e vuole aprire un'attività qui non riesce a districarsi nella burocrazia italiana. And we try to ask, abbiamo provato a chiedere a più di 3 commercialisti e a 2 avvocati per capire come fare impresa in Italia, ma è difficilissimo, ci vuole davvero tanto tempo. Procedure che in Ucraina mi richiedono davvero 5 minuti, qui mi hanno portato via metà anno. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo agli appuntamenti politici. Il candidato presidente della coalizione di centrodestra, Massimiliano Fedriga, parteciperà alla presentazione della lista della Lega per la circoscrizione regionale di Gorizia alle 14 in Piazza Repubblica, Monfalcone. Sanità, lavoro, ambiente, beni comuni, la regione come laboratorio politico, i temi dell'incontro col candidato presidente della coalizione di centrosinistra Massimo Moretuzzo, che si terrà alle 10 al Bar Knulp di via Madonna del Mare a Trieste. Si terrà stamattina a Saciletto di Ruda la commemorazione dei combattenti dell'intendenza Montes e dei gruppi di azione patriottica fucilati dai fascisti nel febbraio 1945. Fra gli interventi quello del deputato del PD Piero Fassino, che pronuncerà l'orazione ufficiale alle 10.30. A Pordenone da ieri è in corso Ortogiardino, il salone della floricoltura e del vivaismo, che resterà aperto alla fiera fino al 12 marzo in un'atmosfera che preannuncia la primavera. La natura si sta appena risvegliando, ma Ortogiardino alla fiera di Pordenone accelera la voglia di colorare giardini e balconi con piante, fiori e arbusti, con una riscoperta delle varietà più rustiche. Tra queste, per esempio, le orchidee selvatiche. Crescono da noi in Europa e in tutti i climi freddi del mondo. Vanno a riposo solitamente in autunno, sparisce la pianta e rimane il rizoma, il tubero, o le radici, insomma, sottoterra, e in primavera rispuntano. Qual è la loro caratteristica di queste piante antiche, per esempio i garofani? Sono molto resistenti, sono profumati e fioriscono tutta estate. La cosa bella delle piante di una volta, proprio la riscoperta delle piante di una volta, prima salviamo il pianeta, no? Ritorniamo a colorare il pianeta. E poi le piante una volta sono più rustiche, hanno bisogno di meno concimi, meno manutenzione, perché nascevano spontanee in mezzo ai campi. Molta la curiosità per gli agrumi e le loro varietà più esotiche, dai limoni rossi ai kumquat alle mani di Buddha. Attirano i clienti le mimose, le eleganti camellie fiorite e i profumi intensi delle varietà più ricercate delle rose. Pordenone, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Prosegue il ciclo Lezioni di Storia Ribelli, che questa volta vedrà sul palco la storica delle donne Valeria Palumbo per condurre l'incontro intitolato Virginia Woolf, fuori dalla trappola del sesso. A partire dal romanzo intitolato Orlando, firmato dalla scrittrice inglese nel 1928, si parlerà della mutabilità di idee e definizioni su sesso e genere. Come altri intellettuali e artisti, Woolf si chiese perché l'appartenenza a un determinato sesso dovesse decidere la vita del singolo. Appuntamento a Trieste, al Teatro Verdi, alle 11. In occasione dell'anniversario della nascita del pittore settecentesco veneziano di origini friulane Giambattista Tiepolo, verrà inaugurato l'allestimento rinnovato della Sala Decima della Galleria d'Arte Antica di Udine. L'iniziativa consente di esaltare le tonalità e mostrare le diverse sfaccettature delle opere mediante un gioco di specchi, luci e volumi, realizzato anche grazie ad una serie di pannelli fonoassorbenti. A Udine, al Castello, nel Salone del Parlamento, a mezzogiorno. A rap, cori da stadio e pop, scenario, il palco del Teatro Verdi di Trieste, dove il sipario ieri si è alzato su un bullo in maschera. Viviamo tutti, pace e felici. Un po' di Tosca e Rigoletto, Orfeo e Filippo II al profumo di Violetta Valéry. Aggiungere poi un tocco di rap, cori da stadio e musica pop. Ecco servito un bullo in maschera, ovvero l'opera Nel pallone, in scena fino al 14 marzo al ridotto del Teatro Verdi di Trieste. La musica è del triestino Federico Gon, il libretto di Stefano Valanzuolo, e al centro c'è il bullismo esercitato e subito sul campo da calcio di una squadra di giovanissimi. Sul palco, a fianco dei 5 cantanti professionisti a cui sono affidati i ruoli principali, anche una dozzina di studenti del liceo musicale Carducci Dante, un'occasione unica per capire come funziona il mondo della lirica vivendolo. E poi il colpo di scena: entra Marco il Pinguino, che aiuta il pubblico a interpretare il canto lirico. Un doveroso omaggio ad uno dei cittadini illustri di Trieste, perché pensiamo che questo pinguino visse ben 32 anni, insomma un numero di anni incredibile per la vita di un pinguino, e veramente era amato da tutti noi triestini. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo al calcio, in Serie A finisce 0-0 a Bergamo fra Udinese e Atalanta. Il derby tra deluse del girone di ritorno, Atalanta e Udinese, finisce 0-0 senza risolvere i problemi delle due sfidanti. Per vedere un tiro in porta, l'unico dei friulani, occorre aspettare il 30esimo, quando Toven alza debolmente il mancino da terra in mischia su spunto di Betto. Soddisfatto l'allenatore Sottile, avevamo il problema di gestire situazioni importanti e oggi invece abbiamo portato via un punto da Bergamo. Anche in uno contro uno ce la siamo cavata. Va bene. L'Atalanta gioca bene al calcio e si vede la mano di un grande allenatore per la scelta mirata di giocatori che riescono a fare scambi rapidi andando a 200 all'ora, commenta. Nelle ultime partite c'è sfuggita la vittoria, specialmente in casa, per episodi di cui abbiamo parlato apertamente in settimana, decidendo che non dovessero ripetersi. Soddisfatto anche il difensore Perez: abbiamo tutti fatto una grande partita, dobbiamo continuare così ed essere cattivi come oggi. L'Udinese è ora nona in classifica, 3 punti sotto l'Atalanta. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. In Serie C oggi la Triestina affronterà il Mantova, inizio partita alle 14:30. Il Pordenone riceverà nel nuovo stadio di casa il Tognon di Fontana Fredda la Pergolettese, fischio d'inizio alle 17:30. Basket in A1 alle 18:30, Pallacanestro Trieste sfida Treviso all'Allianz Dome. In A2 derby Udine Cividale alle 18. Pallavolo, nell'ultima gara di regular season della Serie A2 femminile, la CDA Talma Sons affronterà in casa la 3M Pallavolo Perugia, fischio d'inizio alle 17. La corsa campestre Cross di Sant'Andrea è in programma a Santa Margherita di Gruagno, nel comune di Moruzzo, con ritrovo al Forte Militare un'ora prima della partenza, dalle 9. Il tema dell'istruzione nell'apertura alta del piccolo di Trieste, con una foto di studenti che indossano un visore per la realtà aumentata. Il titolo: fondi PNRR per la scuola del futuro. L'apertura vera e propria della prima pagina è sul futuro della gestione di Porto Piccolo. Marriott in campo a Sistiana, la catena di hotellerie al fianco della proprietà di Porto Piccolo nella ricerca di nuovi imprenditori. Ma la foto centrale è per la prima apertura della spiaggia più popolare e più famosa della città. Il Pedocin anticipa la stagione. All'interno sono dedicate alla scuola le due pagine di primo piano. Ecco i titoli: tra laboratori e web TV da Roma, 33 milioni per la scuola del futuro. Altro titolo accanto: rivoluzione Dada, adesso a cambiare aula tra una lezione e l'altra sono i ragazzi, non i prof, dove Dada sta per didattiche, per ambienti di apprendimento. Nelle pagine interne anche un articolo sulla scoperta da parte di siti di informazione russi di una vendita di armi pesanti serbe all'Ucraina tramite una triangolazione. E in economia la svolta all'idrogeno di Isotta Fraschini, lo storico marchio dell'industria italiana che produce motori navali, è controllata da Fincantieri ed è presieduta da Sergio Razzetto. La stretta creditizia in regione, l'apertura del Messaggero Veneto nell'edizione di Udine, che nell'interno, sempre in tema economia, si occupa delle ripartizioni territoriali dei fondi regionali alla protezione civile, a fronte di una cifra cumulativa di 26 milioni di euro. Capocronaca per l'allungarsi dei tempi di attesa per le richieste indirizzate al difensore civico, così come prospettato dal bilancio 2022 del Garante De Paoli. Il Gazzettino di Udine apre sui preparativi per il raduno nazionale degli alpini a Udine, previsto a maggio, a fronte di alberghi e hotel già tutti esauriti. Per la cronaca, l'aggressione a una giovane nella zona di Borgo Stazione da parte di 4 coetanee avvenuta lo scorso dicembre, che ora vede le presunte responsabili denunciate per il reato di lesioni aggravate in concorso. L'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo. L'apertura. L'ex Hannibal raddoppia. Marina Monfalcone, di proprietà Red Bull, ha acquisito l'area ex Sodena. Ipotesi maxi yacht all'Isert. E a centro pagina una foto ci informa che a Gorizia rinasce l'antico caffè Garibaldi. Aperture e chiusure di locali pubblici, appunto il tema dell'apertura delle pagine di Gorizia. L'antico caffè Garibaldi tornerà ai fasti passati, in vendita altri locali, il bar all'angolo tra Corso Italia e Viale 24 Maggio affittato a investitori sloveni, cartelli vendesi in quattro attività tra Via Rastello, Piazza Cavour e Via Trieste. Un articolo sull'auditorium di Via Roma, che viaggia verso la riapertura nel 2025, sarà strategico per attività e concerti. Zona industriale dell'Isert, tecnici ARPA al lavoro per accertare la presenza di amianto all'ex Parisi. L'apertura del Messaggero Veneto di Pordenone per la prima partita di oggi dei Neroverdi nello stadio di Fontana Fredda. Dalle pagine interne lo strano caso dei passaporti con lunghe liste di attesa per il rilascio e poi, una volta pronti, non ritirati e rimasti nel deposito della questura. Dalla pagina di Maniago la giunta pubblica convocata in comune per giovedì in merito all'approvazione del piano attuativo proposto dal centro culturale islamico locale per l'apertura di un centro culturale nel capannone ex Farm. Il Gazzettino di Pordenone apre sull'incidente mortale domestico di Polcenigo causato dalla motozappa. Dalle pagine interne un reportage sulla presentazione del restauro di Palazzo Ragazzoni riguardante le tre ali del palazzo. Il progetto futuro riguarda il recupero della colombaia. Dai quotidiani nazionali su Repubblica si legge un dossier su una banca cinese con filiali fantasma in Italia che ricicla miliardi verso Pechino ed è usata da narcotrafficanti e da imprenditori del nord-est. I fatti sono stati indagati dalla Guardia di Finanza di Pordenone e sono stati al centro di un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. Il male dentro, menzogne e verità di un delitto mostruoso è l'ultimo libro del giornalista friulano Matteo Macuglia, che sarà presentato dall'autore a Udine alla Libreria Moderna Udinese in via Cavour alle 11.30. Nelle pagine dell'opera viene raccontata la tragica storia dei coniugi Peter e Laura Neumeier, uccisi dal figlio Benno a Bolzano il 4 gennaio del 2021. Passi di stelle, Les Italiens de l'Opéra de Paris e lo spettacolo di gala con la direzione artistica di Alessandro Carbone, in cui si esibiranno alcuni fra i migliori artisti della compagnia di ballo del celebre teatro d'opera parigino. Sul palco un viaggio fra repertorio classico, neoclassico e contemporaneo che propone passi a due e assoli coreografati da Béjart, Nureyev, Petipas e tanti altri astri della danza, oltre a novità e anteprime. Lo spettacolo sostituisce il balletto Giselle, che non avrà luogo per problemi organizzativi della compagnia, a Udine al Teatro Nuovo alle 18. Gorizia, le due capitali, è il titolo della puntata del programma Di là dal fiume tra gli alberi, che sarà trasmesso su Rai 5 alle 22.10. Ripercorre la storia mitteleuropea attraverso un viaggio nei luoghi di confine. Il documentario, realizzato in 8 giorni di riprese, narra la vita dei luoghi di frontiera con numerose testimonianze, tra cui l'ex portiere Dino Zoff, gli psichiatri Paolo Maria Bertagni e Angelo Righetti, lo storico Alessandro Cattunar. Sarà dedicato alle musiche di Ennio Morricone e Nino Rota il secondo concerto della stagione 2023 dell'Accademia Antonio Ricci. Sul palco il flautista Andrea Griminelli, accompagnato dall'orchestra da camera Accademia di Santa Sofia, a Udine al Castello alle 18. Penultimo concerto in cartellone per la rassegna Musica Insieme, che proporrà il duo composto da Silvia Borghese al violino, Giacomo Sebastiano Benzing al pianoforte, a Pordenone a Casa Zanussi alle 11. Diamo un'occhiata ai programmi odierni della sede. Alla radio alle 9.15 la prima puntata di Teniamoci per mano, originale radiofonico in 4 puntate di Gianni Gori, per la regia di Stefania De Maria. In TV alle 9.15 su Rai 3 il documentario Umberto Saba di Giampaolo Penco. Sono le 8.49 minuti e 20 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Giuliano Pecorari, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Per il momento è tutto, l'informazione regionale della Rai torna alla radio col giornale radio oggi in onda alle 12.15 e poi col telegiornale delle 14 su Rai 3. Tra poco c'è Vita nei Campi. Grazie della cortese attenzione da Maria Spezia e da Antonio Cajazza. Buona domenica e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.